Nangye jinza ge be zon nangye andro la benje zangye dromba. Questo dovrebbe aggiustare la nostra motivazione, come di solito, quindi pensando che non siamo soltanto qui per noi, per ottenere la propria felicità personale, ma siamo anche qui prendendo in considerazione quindi tutti gli altri esseri che sono esattamente come noi, ricercano la felicità ma incontrano sempre difficoltà, insoddisfazione, quindi adesso che noi abbiamo trovato questo metodo, abbiamo la capacità quindi di pacificare la nostra mente, sviluppare delle qualità e quindi eventualmente fare in modo che gli altri anche abbiano la felicità, le case della felicità. Quindi cerchiamo di generare questa attitudine. Siamo qui per fare in modo che la nostra mente diventi una fonte di benessere, di pace, non soltanto per noi ma anche per gli altri. Quindi questa piena capacità, questa abilità, si ritrova nella sua perfezione, nello stato di Buddha, okay? Quindi dobbiamo cercare di generare questa mente, quindi posso anch'io ottenere questo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, okay? Questa mente si chiama mente di Bodhicitta, è l'attitudine la più elevata che possiamo generare, okay? Quindi è molto importante avere questa attitudine, perché questi insegnamenti quindi hanno come scopo di portare l'essere a questo stato. Quindi dobbiamo avere l'attitudine che corrisponde, almeno che corrisponde al tipo di insegnamento che ascoltiamo. Ok, quindi la settimana scorsa eravamo dobbiamo finire il rifugio, quindi c'era l'insieme del rifugio, quindi vi ricordiamo che stiamo finendo quello che riguarda l'essere di motivazione iniziale, che okay? È l'essere di motivazione iniziale come scopo l'ottenimento della felicità nelle prossime esistenze, quindi tramite le varie contemplazioni che abbiamo visto insieme, le vari insegnamenti, addestramenti mentali, la persona piano piano sviluppa la sua comprensione, la sua mente è in grado di non essere più, diciamo, univocamente focalizzati sulle apparenze di questa vita, ma è in grado di prendere anche cose che vanno al di là di questa vita, ok? Quindi siamo quindi in questi, il come generare quel tipo di mente, qual è l'addestramento per fare in modo che la mente si libera piano piano di questa sete univoca per i beni e la soddisfazione esclusiva di questa esistenza. Okay? E siamo arrivati, abbiamo visto il rifugio, che è il penultimo punto di questa sezione, e siamo rimasti a vedere quali sono i vantaggi della presa di rifugio. Okay? Quindi dobbiamo vedere questo insieme. Rispetto a quello che abbiamo coperto insieme, questo forse per le persone che seguono regolarmente, avete dei punti da chiarire, volete chiarire delle cose prima che andiamo avanti? No. Ok. Andiamo avanti. Quindi questo significa due cose. Ok. Che avete capito tutto e che la mia spiegazione è perfetta. Ok, allora i benefici, se guardiamo i benefici della presa di rifugio, quindi non rientro nei dettagli di ciò che significa il prendere rifugio, principalmente dobbiamo avere due attitudini per avere una presa di rifugio effettiva, l'abbiamo visto, è un certo timore rispetto alle sofferenze future che una persona, che un essere può eventualmente incontrare, e l'altro è la fiducia o la certezza, okay, che i tre oggetti di rifugio, che sono il Buddha, il suo insegnamento, quindi le realizzazioni che derivano di questo insegnamento, questo è principale, le realizzazioni, gli ottenimenti che derivano di questi insegnamenti, della pratica di questi insegnamenti, e le persone che hanno già ottenuto un certo livello sono effettivamente in grado di proteggere un essere dalla sofferenza futura. Okay? Quindi siamo andati in queste varie spiegazioni, abbiamo visto in dettaglio quali sono le qualità di questi tre e in che modo rappresentano una fonte di rifugio. Adesso vediamo i benefici di prendere rifugio. Allora abbiamo nella tradizione orale vengono presentati 8 benefici. Ok, quindi li vediamo velocemente perché voglio entrare in altre cose. Allora la prima è che la presa di rifugio focalizzare la mente in quel modo, generare queste attitudini e quindi prendere rifugio ricordandosi le qualità, la funzione, le entità, okay, di questi tre oggetti di rifugio, cioè, è causa di una grande, di una purificazione della mente, okay, e di un'accumulazione di energia positiva, virtuosa, che potenzializza la mente per realizzare cose molto più profonde. La seconda è che la persona il benessere nella vita di questa persona aumenta, no? dovuto alla sua attitudine mentale che incomincia, diciamo, a cambiare, la sua percezione, la sua comprensione cambia. E quindi nel buddismo, come vi dico sempre, c'è il benessere, non dipende da ciò che avete, di dove siete, ma come la propria mente si relaziona con questo ambiente, con le situazioni delle persone, che okay? Quindi lo sguardo che portate sulle cose, questo determina il vostro livello di felicità o di sofferenza, che okay? Il proprio modo di concettualizzare, di pensare, determina direttamente il vostro benessere, perché questo modo di pensare produce delle sensazioni, no? Si pensate a delle cose positive, piacevole, si guardate le qualità nelle persone, i vantaggi di una situazione, allora automaticamente c'è una sensazione piacevole, okay? Invece si pensate in un modo negativo, okay? Vedete i difetti nei posti, nelle persone, criticate, eccetera, allora automaticamente la mente è infelice, no? C'è uno stato di infelicità. Quindi tenete in mente questo. Questo, diciamo, è un pilastro della pratica. Okay? E poi l'altro beneficio è che si ottiene a un livello di concentrazione, cioè nel senso che la capacità di concentrare la mente aumenta. Ok? Altra cosa è che abbiamo una certa protezione, una certa benedizione che arriva, no, nella vita di tutti i giorni. Mm-hmm. Un altro beneficio è che le attitudini incorrette che sono concordanti con che sono la causa della sofferenza, delle difficoltà, questo vengono piano piano, si riducono per trovare la loro estinzione completa all'interno della propria attività della persona e della sua concettualizzazione. Ok, più o meno ci siamo, ok? Sì, otterremo velocemente, quindi dovuto alla presa di rifugio c'è un ottenimento, diciamo, dei vari livelli fino all'ottenimento dello stato di Buddha o la liberazione, sì, questo è lo scopo della persona. Ok, quindi in breve questo. Quindi dobbiamo pensare, per concludere questa sezione, dobbiamo pensare che il rifugio è la porta principale dell'insegnamento del Buddha, okay? Insegnamento buddista. Quindi il rifugio deve essere al di là delle mere parole, quindi non deve limitarsi a questa recitazione che viene fatta prima di meditare o prima dell'insegnamento, okay? Perché altrimenti non avrà la capacità, la propria attitudine non sarà abbastanza, non avrà il fondamento, okay, per eliminare gli ostacoli interni e esterni. Okay? Sì. L'altra cosa è che con un rifugio autentico, allora molto velocemente l'abbiamo detto, le attitudini negative vengono eliminate e si sviluppano delle qualità che diventano anche difficili da far degenerare dovuto a questa convinzione interna, questa attitudine interna. Quindi è importante di mantenere queste due cause, di coltivare queste due cause di rifugio e di avere questa convinzione. E dobbiamo vedere nell'insegnamento del Buddha, nel rifugio, un programma, okay? Un programma che piano piano elimina le nostre attitudini negative e sviluppa le nostre qualità. Questo diciamo in breve. Quindi come dicevo, no? Il gioiello effettivo, cioè il rifugio effettivo, è il gioiello del Dharma, il gioiello dell'insegnamento, che sono, abbiamo visto, sia quello scritturale ma quello vero, no? è quello, il Dharma della realizzazione, che sono il vero sentiero e le vere cessazioni che vengono attualizzate nel proprio continuo mentale. E quindi l'ottenimento di questo gioiello del Dharma, che una volta che viene generata la persona è definitivamente protetta dalla sofferenza, l'ottenimento quindi di questo gioiello del Dharma è un graduale, diciamo, sviluppo o ottenimento di due fattori. Un primo fattore che è l'eliminazione della porzione di errore nel comportamento che crea la sofferenza, e l'altra è l'acquisizione di conoscenza che porta in sé lo sviluppo delle qualità. Okay? Quindi questo, in breve, cerchiamo di concludere questa sezione. Ok. Quindi adesso se prendiamo il testo ci ritroviamo a pagina 40 qualcosa. Trentanove. Quindi siamo a pagina 39, entriamo in una nuova sezione che è la meditazione sulle azioni e i loro risultati, la radice di ogni felicità e eccellenze. Quindi questo costituisce l'ultima sezione o l'ultimo insegnamento, le ultime contemplazioni di ciò che riguarda, che vengono chiamate pratiche comune, okay? Perché sono comune anche a altri due livelli di motivazione, quello dello scopo intermedio e del grande scopo, e costituisce quindi l'ultima sezione dell'insegnamento sulla persona che ricerca la felicità nelle vite future. Okay? Quindi e tramite il rifugio e tramite l'adottare il comportamento in linea con la legge di causa e effetto, questo costituisce il metodo per ottenere la felicità nelle vite future e per non incontrare sofferenza. Ok? Quindi, sì. Anche la felicità in questa vita. Ne abbiamo già parlato di questo. Allora, per rispondere a questa domanda molto brevemente, in un modo molto breve, perché la storia è complessa, che se una persona ricerca esclusivamente la felicità di questa vita, qual è il problema? È che in generale la felicità viene ricercata tramite i vari possedimenti, i vari ottenimenti, varie situazioni. Okay? Quindi dovuto all'attaccamento a questa vita, esclusiva a questa vita, c'è una proliferazione di quello che viene chiamato afflizione mentale, come l'attaccamento, l'odio, l'orgoglio, la bramosia, tutte queste cose. Quindi è paradossale, ma se uno analizza proprio il comportamento, anche l'attitudine mentale e psicologica di una persona che ha molto attaccamento per la felicità di questa vita, il suo livello di difficoltà è proporzionale al suo livello di attaccamento o di ricerca esclusivo per questa vita, semplicemente perché l'ottenimento della felicità, come lo dicevo prima, non reside nell'ottenimento di varie cose, ma nella pacificazione di questa mente, no? Finché adesso la nostra mente è molto debole, nel senso che basta udire delle parole anche spiacevoli, quindi una mera vibrazione dell'aria è in grado di renderci infelice per settimane intere, non delle critiche nell'ambito del lavoro, quindi semplici parole sono in grado di recidere la continuità o la pace mentale per molte settimane. O basta che una persona vede qualcosa di attraente, no? E allora diventa molto difficile anche calmare la mente, no? Perché la mente va sempre su questo oggetto, quindi si soffre per ottenerlo. E dopo c'è le difficoltà per mantenerlo e alla fine comunque questo oggetto verrà perso in un modo o in un altro. Quindi la ricerca della felicità esclusiva di questa vita è qualcosa di molto difficile per noi esseri umani di ottenere. Okay? È paradossale, ma è quando si ricerca qualcosa che va al di là di questa vita, per esempio la felicità nelle vite future o la liberazione o lo stato di Buddha, allora tramite l'impegno o l'addestramento in questi vari contemplazioni, metodi, in questi vari sviluppo di comprensione di ciò che costituisce le caratteristiche convenzionali ultime dei fenomeni che ci circondano, allora la mente si pacifica. Quindi è ricercando qualcosa di più, un obiettivo più elevato, che come prodotto secondario comunque la mente viene pacificata tramite quell'addestramento. Però la ricerca della felicità di questa vita è qualcosa che sappiamo che non funziona, perché ho come prova che siete tutti qui stasera. Quindi questo significa che nelle vostre vite, e anche nella mia, c'è qualcosa che non va, altrimenti le persone non vengono qui. Quindi il fatto di essere qui è prova di una certa introspezione, una certa comprensione. Siamo andati, abbiamo guardato e abbiamo visto che c'è qualcosa che è imperfetto della nostra esistenza. E quindi il fatto che ricerchiamo nelle varie tradizioni spirituali un metodo per sistemare questo problema, okay? Quindi la ricerca di la felicità in questa vita è qualcosa che dobbiamo essere molto abile quando si ricerca la felicità in questa vita. Dobbiamo comprendere quali sono le cause della felicità e quali sono le cause della sofferenza, okay? Quindi le cause della sofferenza sono principalmente le attività, cioè i fattori mentali che spingono a certo tipo di azione, e come risultato di questa azione la persona sperimenta sofferenza. Quindi senza una comprensione molto chiara di ciò che va adottato e di ciò che va abbandonato è molto difficile di ottenere la felicità e la soddisfazione, okay? Quindi c'è un grande porzione di dove noi dobbiamo cercare di analizzare, riflettere, okay? Contemplare, cercare di estrarre delle conclusioni, okay? Quindi non so se ho risposto, non è uscito ben chiaro stasera, però diciamo che la sofferenza principale degli esseri umani è l'insoddisfazione, no? Semplicemente perché l'insoddisfazione? Perché l'essere umano andiamo a ricercare la felicità dove non c'è la felicità. Abbiamo delle sovraimposizioni, okay? Delle concezioni erronee, che sono delle sovraimposizioni. Tramite queste varie sovraimposizioni abbiamo il concepire ciò che è impermanente come essendo la natura della permanenza, o il concepire ciò che è dotato, ciò che porta a felicità invece nella natura della sofferenza. Okay? Quindi finché la mente sovraimpone felicità su certe situazioni, su certi oggetti, è molto difficile di fare che questa mente si muove e va a ricercare qualcos'altro. Quindi c'è dobbiamo mettere molta enfasi su analizzare quali sono veramente le fonti della nostra felicità, no? Dove andiamo a ricercare la felicità, se effettivamente la troviamo. E vediamo che infatti i supporti di felicità che noi abbiamo sono infatti della natura della sofferenza, non sono della natura della felicità. Perché se qualcosa della natura della felicità più viene utilizzato, più la felicità aumenta. Ok? Normale, perché è la sua natura di dare felicità. Invece noi, più andiamo a utilizzare le cose che ci rendono felice, e questo possono essere gli amici, il cibo, qualsiasi cosa, il cinema, la musica, quello che volete, la musica, quello che volete, più andiamo, più spingiamo, e infatti più la felicità diminuisce e incontriamo il spiacevole, no? L'infelicità, la sofferenza. Per esempio, pensiamo tutti che andare a mangiare con gli amici, il venerdì sera, no? Sabato sera, andiamo tutti a mangiare insieme, perché è felicità, no? È piacevole mangiare con gli amici, andiamo al ristorante, si mangia, si chiacchiera, eccetera. Però questo è piacevole soltanto perché prima c'era una situazione di insoddisfazione, no? Di insoddisfazione. Allora, questa nuova situazione nella quale ci buttiamo, okay, fa cessare questa situazione di insoddisfazione, di frustrazione, di infelicità o questo sconforto che c'era prima, è dovuto all'incontrare questa nuova situazione. Allora la persona si sente, c'è un sollievo, no, di questa prima esperienza. Allora la persona pensa che essere con gli amici e mangiare la pizza è felicità, ma non lo è, perché si rimane troppo con gli amici e si mangi troppo pizza, a un certo punto è sconfortevole. Quindi questo è valido in tutti, tutti gli ambiti della nostra esistenza, no? C'è un esempio, per esempio, cioè bere qualcosa di fresco d'estate è piacevole, no? Cioè una birra fresca, una Coca-Cola fresca, quello che volete, è piacevole, no? Piacevole, ma è piacevole solo perché c'è la sofferenza della sete e la sofferenza del caldo, altrimenti non è piacevole di bere qualcosa di freddo quando non avete sete. E quando c'è anche freddo. Quindi vediamo che tutti i supporti, no, sulle quali noi ci basiamo per ottenere la felicità, le cose per le quali lavoriamo anche tutta la nostra vita, no? Vogliamo andare in vacanze di qua, in vacanze di là, infatti non sono veramente delle fonti di felicità, sono semplicemente delle situazioni che fanno cessare un'insoddisfazione che era latente. Infatti c'è un'insoddisfazione latente nella nostra vita, no? E ogni volta che c'è questa mera diminuzione dell'insoddisfazione, di un certo malessere, che può essere anche molto sottile, allora pensiamo che questo è fantastico, no? Dobbiamo andare a vivere in questo posto, dobbiamo assolutamente comprare questa cosa, dobbiamo essere in contatto con queste persone perché ci rendono felici, ma non è così, non è così. Perché questo è valido per tutti i fenomeni impermanenti, no? La felicità è un risultato, la sofferenza è un risultato, dipendono da causa e condizione. E quindi la felicità, come tutti gli altri fenomeni, è distrutta dalle sue proprie cause. Quindi ciò che vi dà felicità oggi vi darà sofferenza domani. È nella natura delle cose. Okay? Perché? Perché tutto qui non c'è niente sul quale ci possiamo veramente appoggiare per ottenere la felicità che noi desideriamo. E quello che desideriamo nel fondo di noi non è una mera soddisfazione momentanea di qualche minuto, di un paio di ore, di un paio di giorni. Vogliamo una felicità che dura, qualcosa che dura, no? E questo dobbiamo trovarlo, questa possibilità, è possibile trovare quel tipo di felicità, ma per questo dobbiamo cambiare la propria mente, perché la mente, nel suo stato di funzionamento, quel tipo di felicità al quale aspiriamo è impossibile trovarlo. Quindi bisogna pacificare la mente, eliminare le sovraimposizioni che ci fanno correre dietro tutte queste varie cose che infatti sono natura della sofferenza e dell'insoddisfazione. Dobbiamo quindi reeducare la nostra mente, eliminare l'ignoranza, questo fraintendimento della realtà, pacificare le sue varie attività impure o contaminate come la brama, l'avversione, cioè la rabbia, cioè la collera, cioè il risentimento, la gelosia, l'orgoglio, tutte queste cose che quando sorgono creano infelicità per noi, ma certe volte anche per gli altri. Quindi lo scopo del buddismo, quindi abbiamo visto, no? Ci sono tre scopi, perché abbiamo tre tipi di maturazione della propria mente. Quindi se le persone, la loro mente è parzialmente maturata, quindi ricercano, hanno capito che questa vita è nella natura dell'insoddisfazione, eccetera, però quindi comunque c'è la possibilità di continuare a essere in contatto con questi vari dottrini, insegnamenti che apportano una certa felicità, quindi la persona cerca un metodo per assicurarsi la vita futura, perché ha capito la continuità mentale, non ritorniamo su queste cose, le abbiamo viste insieme. E poi c'è un altro livello di maturazione della mente, dove la persona è molto più acuta, ha una saggezza molto più profonda e realizza che tutto in questa vita è nella natura dell'insoddisfazione, quindi ha realizzato le caratteristiche convenzionali ma anche ultime di tutto ciò che circonda, di tutto ciò che costituiscono cioè la sfera dei fenomeni, e questa persona vuole uscire di questa sfera, di questo modo di esistenza, cioè condizionato, okay? dalle afflizioni mentali e delle azioni. E questa persona quindi ricerca quello che viene chiamato il nirvana, Nirvana non è un posto, non è un posto. Il nirvana significa cessazione. Cessazione di che cosa? Di queste attività mentali delle quali abbiamo parlato, dove la mente quindi dimora in completa pacificazione. È il suo modo di relazionarsi, quindi con i fenomeni, le persone, gli ambienti, non è più vincolato, non si fa più nella sfera dell'ignoranza, della confusione, ma nel come esistono veramente le cose, quali sono le vere caratteristiche. Quindi questa mente, nella mente di questa persona è impossibile che viene generata attaccamento, orgoglio, cioè collera, tutte queste cose. La mente è sempre pacificata. Okay? E poi c'è un altro livello ancora, un altro livello di maturazione della propria continuità mentale, che è l'essere del grande scopo, che lui, prendendo in considerazione anche gli altri, non ricerca solo la pacificazione della sofferenza individuale, ma la pacificazione della sofferenza in generale. Quindi questa persona non ricerca il nirvana, ma ricerca lo stato di Buddha, dove diventa in grado di anche porre gli altri in questo stato. Quindi questi sono i vari livelli, così costituiscono i stati del sentiero. Quindi adesso siamo ancora, visto che siamo all'inizio del testo, nel primo terzo del testo, quindi siamo nelle contemplazioni dell'essere di motivazione iniziale, e adesso dobbiamo entrare in quello che è chiamato l'insegnamento sulla legge di causa effetto. Quindi penso che ho risposto alla domanda adesso, più o meno. Comunque una cosa molto molto complessa, sì. Molto molto complessa. Siamo confusi rispetto a quali sono le varie cose della felicità e della sofferenza, siamo confusi rispetto alla natura dei fenomeni, quindi in questa confusione cerchiamo di fare quello che possiamo. Okay? Quindi la nostra comprensione per adesso è che questi vari oggetti producono uno stato momentaneo di benessere e abbiamo difficoltà ad andare al di là di questo. Il problema è che quello, facendo così, è come bere dell'acqua salata, cioè nel senso che la sete non si mai. Quindi invece incrementiamo la proliferazione, perché più sviluppiamo, cioè più abbiamo desiderio per vari oggetti, eccetera, automaticamente più sviluppiamo attaccamento, più la mente si agita. Quindi più abbiamo attaccamento significa che abbiamo anche più avversione e rispondiamo con collera per tutto ciò che ostacola l'ottenimento di quello che vogliamo in termini di beni, di situazione, di servizi. Cioè, dobbiamo capire che l'attaccamento e l'avversione vanno pari pari. Più abbiamo attaccamento, più avremo avversione. Automaticamente più avremo anche invidia, e più avremo anche gelosia, più avremo orgoglio osservando la propria situazione in paragone a quella degli altri. Quindi alla fine la mente peggiora. Già la mente scende naturalmente verso il basso, non so se avete notato, ma in quel modo è una spirale che ci tira verso il basso, perché la mente può solo peggiorare se non cambiamo attitudine e metodo per ottenere felicità, perché si parla di questo. Se non cambiamo metodo per ottenere la felicità, entriamo in una spirale che ci tira verso il basso. Quindi la mente può solo peggiorare, e quando la mente peggiora, la sofferenza si incrementa automaticamente. Okay. Andiamo avanti. Quindi meditazione sulle azioni e i loro risultati è la radice di ogni felicità e eccellenza. Se qualcuno di lingua italiana può incominciare a lettore del testo, grazie. Grazie. Anche? Anche se con il ricordare i tre, le libertà e le ricchezze difficili da trovare, la morte in permanenza e vibrazioni negative, si giunge ad avere una mente grezza che pensa io praticherò Dharma. Se non si comprende l'unico punto essenziale del sistema per praticare il Dharma, non si sarà soddisfatti con il cibo, l'abbigliamento e le risorse che vengono designate quali condizioni favorevoli per la pratica del Dharma. Rispetto ad esse si accumuleranno parecchie negatività. A causa di ciò si consumerà il proprio tempo solamente nelle 8 variegate preoccupazioni mondane. Grazie, quindi fermiamoci 2 secondi. Quindi questo è il problema, no? Che visto che siamo coinvolti nell'esclusiva ricerca dei vari beni, servizi e condizioni che vengono percepiti come condizione favorevole di questa vita, non pensiamo a nient'altro di più elevato, non pensiamo alle vite future, non pensiamo alla liberazione, non pensiamo a sviluppare qualità, perché siamo coinvolti in queste cose. È molto facile, no, di essere semplicemente soddisfatti nell'ottenere delle cose. Quindi passiamo il tempo di quello che la nostra vita viene sprecata in quel modo, perché abbiamo un potenziale straordinario, no? Abbiamo una mente umana, la mente umana ha un potenziale straordinario, quindi ha la capacità a livello dell'intelligenza di creare delle cose, eccetera, ma ha anche il potenziale, visto che abbiamo questa preziosa rinascita umana, no? Dotata dai 18 attributi. Abbiamo incontrato questi vari insegnamenti che ci permettono di pacificare la mente, di creare le cause della felicità futura, di diventare una causa anche per la felicità degli altri, che questo è estremamente elevato. Non pensiamo neanche a queste cose, quindi veramente l'essenza o il significato che potremmo estrarre di questa vita lo sprechiamo completamente in una ricerca sterile di vari oggetti e possedimenti che comunque dovremmo lasciare al momento della morte, perché comunque l'unica certezza della nostra vita è che dobbiamo morire. Non si sa quando, non si sa come, e quando si muore si lascia tutto dietro. Quindi tutto quello che accumuliamo, tutti i ricordi, eccetera, alla fine sono niente. È l'unica cosa che è importante, quindi sono le qualità che abbiamo riuscito a generare, no? E i difetti che abbiamo abbandonati. Perché è questo che ci segue, no? Quindi il quanto siamo stati in grado di pacificare la propria continuità mentale. E invece di far questo, passiamo la nostra vita in quello che è chiamato gli 8 dharma mondani. Sono gli 8 attitudini che sono, vedrete che, guardate, vedrete che la nostra vita si confonde in questo, cioè si riassume in questo. Gli 8 dharma mondani sono 4 coppie, no? 4 coppie. Allora, è l'essere essere felice quando si sperimentano delle cose piacevoli, invece essere depressi, triste quando le esperienze sono spiacevoli. Essere felice quando la persona riceve lode e essere infelice quando invece la persona viene criticata. Essere felice quando la persona sperimenta una certa fama e essere infelice quando invece è nell'anonima, okay? O essere felice quando c'è un guadagno e essere infelice quando c'è una perdita. E quindi tutte le nostre azioni sono fatte per ottenere 4 di questi e evitare 4 altre, no? Quindi la vita in generale è limitata a queste, vengono chiamate le 8 preoccupazioni mondane. Grazie. Consumano il loro tempo nelle 8 preoccupazioni mondane bianche. A causa delle negatività e delle cadute delle 3 porte, la purezza non sorge. In dipendenza di ciò, dopo la morte, le azioni bianche e nere li seguiranno come l'ombra segue il corpo. Perciò la preziosa ghirlanda asserisce: ogni sofferenza proviene dalla non virtù. Similmente, tutte le trasmigrazioni negative, tutte le trasmigrazioni felici vengono dalla virtù e la felicità per tutti gli esseri. Si dice che le azioni bianche e nere e i loro risultati siano infallibili. Siccome questo fu detto dal proclamatore, il Buddha, Buddha, il re delle stabilizzazioni meditative, asserisce: anche se le dimore della luna insieme alle stelle dovessero cadere, la superficie delle montagne insieme alle città venissero distrutte e il costituente dello spazio si trasformasse in un altro aspetto, tu non dovresti proferire parole non veritiere. Si pensi a questo fino a quando sorge una fede che è una mente incrollabile rispetto alle azioni e ai loro risultati pensando. Egli non mentì mai in alcun modo. Ok, grazie. Quindi questa sezione presenta quello che vengono chiamati i quattro attributi generali, quattro caratteristiche generali del karma. Okay? Quindi karma è il termine sanscrito che significa azioni. Okay? E azioni. Quindi questo è uno dei fondamenti della pratica buddista, che è avere un comportamento in accordo con la legge di causa-effetto, la legge del karma. Quindi, quindi adesso vengono presentati questi quattro attributi principali. La legge del karma è una legge di causa-effetto. Ogni azione ha un risultato, ogni esperienza ha le sue cause, ogni esperienza di felicità ha delle cause proprie, ogni esperienza di sofferenza delle cause che sono proprie, ogni azione che noi compiamo tramite il corpo, la parola, ma anche la mente, avranno dei risultati, no? Avranno dei risultati. Quindi il Buddha, nella sua, avendo eliminato oscurazione, nel suo desiderio di porre gli esseri in stati di felicità, perché il buddismo ha questo scopo, no? Lo scopo, l'unica ragione di esistere del buddismo è la diminuzione della sofferenza fino alla sua eliminazione completa. Quindi il Buddha, per fare in modo che gli esseri progressivamente siano in grado di ottenere stati di felicità e di separarsi dalla sofferenza, ha insegnato in certi trattati, in più o meno in dettaglio, quello che costituisce la legge di causa-effetto. Quindi adesso entriamo in questa sezione, che penso avremo bisogno forse di tre sessioni per vederla bene, se vogliamo, almeno due. Okay? Quindi incominceremo oggi. È un insegnamento molto difficile per neofiti. Neofiti, dice così, principiante, okay? difficile da capire, difficile da accettare anche su certi aspetti. Ok? Quindi di solito c'è un po' di agitazione quando queste cose vengono presentate, però cercheremo di fare le cose insieme. Quindi il testo dice che finché non avremo riflettuto sulla legge di cause effetti in dettaglio, quindi riflettuto, analizzato, non saremo in grado di eliminare in un modo corretto le azioni non virtuose, no? Le azioni non virtuose. Qui allora, in questo contesto parliamo di virtù e di non virtù, non c'entra niente con il contesto morale o religioso, eccetera, è semplicemente una terminologia. Qui in questo contesto virtù è ciò che la sua maturazione dimora in una classe di esperienza di felicità, mettiamola così, e la non virtù sono i fenomeni o le azioni quale maturazione dimorano nella classe di esperienza di sofferenza. Quindi ciò che dà fonte alla felicità viene chiamato virtù e ciò che dà fonte alla sofferenza viene chiamato non virtù. Semplicemente per questo. Non c'entra con il morale, essere morale, non essere morale, eccetera. Okay? Quindi finché questa sezione dell'insegnamento non è stata analizzata in dettaglio dal praticante, non sarà in grado di eliminare quindi tutte le non virtù e quindi non sarà in grado di bloccare le cause della sofferenza futura. Ok? Sì. Si parla di se stesso. In generale, finché una persona, possiamo metterla a livello individuale o a livello generale, non cambia, però qui si parla di se stesso, sì. Quindi finché non avremo, cioè mettiamola così, finché non avremo analizzato in dettaglio questa legge di causa-effetto, riflettuto profondamente e generato una convinzione su questa cosa, non saremo in grado di bloccare tutte le azioni non virtuose che sono fonte di sofferenza futura, ok? Quindi se questo, e quindi non saremo in grado di bloccare le cause di quello che vengono chiamate le rinascite infelici o rinascite in stati di sofferenza, ok? Okay. Quindi non saremo, è proprio questo bloccare le azioni non virtuose, no? Che costituisce la protezione dalle sofferenze future, no? Quindi dovete vedere nel karma un programma molto dettagliato per eliminare tutto ciò che vi dà fastidio in questa vita, okay? Le varie esperienze di sofferenza che noi sperimentiamo in questa vita hanno delle cause specifiche, le vedremo insieme. Quindi possiamo fare in modo, su questa base, questa vita che abbiamo, fare in modo di bloccare queste cause per non sperimentare queste sofferenze future. Non soltanto, ma vogliamo tutti, cioè all'interno di questa sfera degli esseri umani, la felicità a certi standard, no? Ci sono delle, parliamo anche tra virgolette di, delle eccellenze, no? Dell'esistenza ciclica, no? Ci sono delle cose che sono comunemente desiderate dagli esseri e che apportano un certo livello di contentezza, si dice contentezza? Di felicità, ok? Quindi vedremo anche le cause specifiche per ottenere queste varie cose, no? Quindi queste varie situazioni, mettiamola così, queste varie situazioni che sono situazioni di benessere, ok? Quindi questa è la legge di cause effetto. Quindi abbiamo adesso, no, nelle nostre mani il metodo per non sperimentare quello che non vogliamo sperimentare e sperimentare invece quello che desideriamo. Okay? Quindi è una cosa particolare. Quindi, quindi dobbiamo vedere in questa sezione, no, un programma che ci permette quindi di proteggerci dalle sofferenze future e di sperimentare tutto ciò che viene considerato come felicità mondana. Allora, la prima cosa, qui abbiamo parlato delle quattro caratteristiche generali del karma, e questo lo vedremo insieme. Quindi le quattro caratteristiche generali del karma sono che il karma è certo, ok? Il karma ha un effetto anche esponenziale, c'è un effetto esponenziale, non si sperimentano effetti di azione che non abbiamo creato, ok? E un'azione non è mai persa, ok? Un'azione non è mai persa. Quindi noi ogni giorno creiamo centinaia di karma, no? Perché abbiamo centinaia di azioni fisiche, verbale e mentale. Ogni volta che queste azioni sono motivate dall'attaccamento, dall'avversione, dall'orgoglio, dalla gelosia, dall'invidia, dalla belligeranza, dal risentimento, potete assicurarvi che il risultato della vostra azione fisica, verbale, della vostra attività mentale sarà una fonte di sofferenza per voi nel futuro. Okay? Non c'è dubbio. Invece guardate in una giornata quante azioni avete motivata dalla compassione, dalla generosità, dall'altruismo, ok? Queste invece sono azioni che derivano, che producono esperienza di felicità futura. Quindi se vogliamo sperimentare la felicità, qui è il lavoro. Qui è il lavoro. Ok, cosa significa che il karma è certo? Il karma è certo nel senso che è definito che una fonte di sofferenza sorge da un'azione non virtuosa, che un'esperienza di felicità sorge necessariamente da un'azione virtuosa, positiva. È impossibile che da un'azione virtuosa sorge la sofferenza, è impossibile che da un'azione non virtuosa sorge la felicità. Quindi dal punto di vista dell'entità è certo, no? Ma non soltanto dal punto di vista dell'entità, questo forse lo vedremo la settimana prossima, ma anche dal punto di vista della natura stessa dell'azione. Ci sono multiplici le varie azioni, Però ogni azione è una causa per un tipo di risultato particolare, no? Sia nel positivo che nel negativo. Per esempio, se prendiamo l'azione di uccidere, ma non soltanto un essere umano, ma anche un animale, eccetera, l'azione di uccidere ha come risultato, quindi un'azione in generale produce quattro tipi di risultati. Okay? Abbiamo quello che viene chiamato, andremo nei dettagli più avanti, però devo introdurre questa cosa, quello che viene chiamato il risultato di piena maturazione. Poi abbiamo il risultato simile alla causa, poi abbiamo il risultato simile all'esperienza e perfino abbiamo il risultato ambientale. Okay? Quindi l'azione di uccidere ha come effetto, di indipendenza dell'attitudine mentale che accompagna la cosa complessa, di produrre, diciamo, cinque aggregati contaminati di sofferenza. Cinque aggregati contaminati sono i costituenti fisico-psichici della persona. Questo è uno. L'altro, abbiamo detto, è l'esperienza simile alla causa. L'esperienza simile alla causa è che l'azione di uccidere, dopo, quando si ritorna al livello umano, c'è ancora dell'energia, quindi il karma non è completamente eliminato, e avremo una vita breve, con malattie. Le malattie, se noi, tutte le varie malattie che sorgono, sono residui dell'azione di uccidere. Okay? Non soltanto, ma abbiamo anche difficoltà, cioè le cure non sono efficaci. Questo è anche derivato dall'azione di uccidere. Quindi questa è l'esperienza simile alla causa. Quindi vedete che c'è, in tutte le variazioni, c'è una congruenza, possiamo esprimerla in quel modo, tra l'azione e il risultato. Abbiamo anche la tendenza simile alla causa, nel senso che ogni volta che uccido c'è un'impronta che viene lasciata sulla mente per avere questa tendenza a riprodurre quel tipo di azione. Non soltanto tendenza a riprodurre, ma c'è anche un piacere nel farlo. Okay? Quindi ecco perché abbiamo persone al quale piace, no, una vita di azione nell'esercito, per esempio, o altri a quale piace andare a caccia, a uccidere. Questo piacere nel far l'azione è dovuto a una familiarità passata con quell'azione. Quindi il problema è che ogni volta che si uccide, si rimette quelle impronte e si produce quel tipo di karma, quindi per avere una vita, una salute precaria, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Quindi questa è l'esperienza simile alla causa, o la tendenza simile alla causa. Poi abbiamo l'effetto ambientale. L'ambiente è indivisibile degli individui che vivono in questo ambiente. Di solito diciamo sempre sì, ma la società, bla bla bla bla bla bla bla bla. Ma la società è tale perché noi siamo tale. Okay? Nel senso che prendiamo il caso dell'uccidere, così comprendete, il risultato ambientale dell'azione di uccidere è di trovarsi in un ambiente violente, dove ci sono conflitti a vari livelli, okay? Dove anche in certi aspetti, in certi estremi, può essere anche arido, dove niente cresce, dove c'è violenza, dove abbiamo ragione per aver paura. Quindi potete vedere che così nel globo, cioè nella Terra, no, ci sono delle concentrazioni di posti dove le persone sperimentano una violenza estrema nel loro ambiente, tutta la loro vita. Quindi qui in Italia vediamo che siamo fortunati, ma c'è un miscolo. Ritroviamo certe volte conflitti, ritroviamo certe volte violenza nella quotidianità. No? Questi sono residui di queste variazioni. Questo è per esprimere il fatto che l'azione, un'azione è certa, cioè nel senso che, scusate, il karma è certo. Qualsiasi sofferenza sorge, anche la minima, dipende, è la maturazione di un'azione non virtuosa. È la felicità anche minima, anche se siete in spiaggia, avete caldo, c'è d'estate, e c'è un'aria, un venticello che si alza, vi accarezza il viso, è piacevole. Questa esperienza di piacere, no? Anche minima, ridicola, dipende dalla maturazione di un'azione virtuosa. Okay? Quindi è anche la minima azione, la minima esperienza spiacevole, come per esempio si esce fuori casa e c'è un cane che ha lasciato qualcosa e l'odore arriva alle vostre narici, okay? Questa esperienza spiacevole è la maturazione di un'azione non virtuosa, okay? Quindi è un residui lasciato da un'azione non virtuosa che non aveva ancora completamente eliminato, non era ancora completamente depauperata della sua capacità di maturazione. Quindi si arriva. Quindi attraverso la sensazione, attraverso l'attività mentale della sensazione, noi sperimentiamo il karma. Okay. Sì. C'è una cosa che non è chiara. Quando noi sperimentiamo il karma, no? Noi però abbiamo la possibilità di poter in qualche modo ravvederci e poter cambiare delle situazioni spiacevoli della nostra vita. Per esempio, l'esempio che ha fatto prima, sono un cacciatore, ho questo istinto di cacciare, posso cercare di correggermi in questo. Ma nel caso di una malattia? Allora, nel caso di una malattia grave che come ha fatto? Che ha maturato? Sì, sì. Scusa, ti do del tu. Sì, sì, no, ma no, beh, già, sì, nel caso preferisco. Di una malattia grave, tutto che ha fatto, anche l'esempio che le medicine non possono fare effetto, sì. Che possibilità? Allora, il karma, si può lavorare sul karma prima che matura. Come si fa a lavorare sul karma? Ci sono delle pratiche dove vengono utilizzate quello che viene chiamato i quattro poteri opponenti, dove possiamo neutralizzare la capacità di maturazione del karma compiuto. Okay? Quindi possiamo la capacità di neutralizzare il karma dipende dalla capacità del meditatore. Okay? Entriamo nei dettagli. Ma una volta che il karma è maturato, lo dobbiamo attraversare. Quindi quello che possiamo fare e dopo è utilizzare queste esperienze spiacevole per incrementare la propria pratica. Quindi ci sono dei metodi per dove vengono utilizzate tutte queste esperienze, dove perché non cioè l'esperienza piacevole possiamo utilizzarle, però di solito non sono di un grande aiuto per noi, perché generiamo attaccamento rispetto a queste esperienze piacevoli. Invece le esperienze di difficoltà della vita le possiamo utilizzare per generare, incrementare le proprie capacità della mente o incrementare anche quello che viene chiamato i tre principali aspetti del sentiero, che sono la mente di immersione definitiva, la mente di compassione o la comprensione della realtà. Quindi possiamo utilizzare queste cose, ma una volta che il karma maturato lo dobbiamo attraversare. Okay. Allora, la legge di karma non significa fatalità, non significa che tutto è predestinato, no? Cioè, non possiamo far niente, cioè, questo è il karma, quindi come si chiama? La fatalità, sì, la fatalità, no? No, che c'è, siamo predestinati, assolutamente no, non significa questo, ok? Il nostro karma, noi abbiamo delle azioni, le compiamo da tempi senza inizio, quindi abbiamo con noi un bagaglio di impronte karmiche che domanda solo a maturare quando le cose, le condizioni arrivano. Quindi ogni volta che noi siamo confrontati a una situazione abbiamo sempre delle scelte, no? di azioni. Quindi se andiamo in questa direzione, allora andremo a far maturare un certo tipo di ci buttiamo in una certa un certo sì, ciclo di maturazione di varie di certe cose. Se invece l'azione andiamo in un'altra direzione, ci comportiamo in un altro modo, allora andiamo a far maturare altre cose. Quindi le possibilità sono il nostro futuro è multiplice, no? Dipende quello che andremo a diventare, quello che andremo a sperimentare, dipende come agiamo in ogni istante, okay? In ogni istante. Quindi non è che c'è una fatalità, no? Assolutamente no, però abbiamo delle potenziali per sperimentare delle grandi sofferenze in principalmente, okay? E sperimentare anche felicità, perché abbiamo creato azioni virtuose nel passato, poche, però ne abbiamo creato. Invece esperienza di sofferenza sicuramente lo dovremo attraversare. Yeah. Quindi quello che possiamo fare, come dicevo prima, è depauperare il karma delle sue capacità di maturazione. Quindi per questo abbiamo i quattro poteri opponenti. Quindi abbiamo quattro poteri opponenti perché ognuno di questi poteri neutralizza un aspetto di maturazione del karma. Vi ricordate, abbiamo avuto quattro livelli di maturazione del karma. Abbiamo parlato, no, appena adesso. Quindi avremo quattro poteri perché vanno a neutralizzare ciascuno di questi vari aspetti. Quindi il primo, abbiamo il potere del rimorso, regretto, non so come si dice in italiano. Cioè, allora, non è qualcosa nel contesto cattolico, cioè c'è il pentimento, eccetera. No, no, assolutamente no. È come, lo dovete capire in quel modo, andate al ristorante con quattro amici, mangiate la stessa cosa, okay? Uscite dal ristorante, vedete il vostro primo amico che cade morto da intossicazioni alimentari, il secondo, il terzo, a un certo punto vi dite ok, sono il prossimo. Quindi a quel momento c'è un certo di pentimento per quello che avete ingerito, ok? Certo, non so se mi posso esprimere in quel modo. Quindi nello stesso modo dovete capire, alla luce di questi vari trattati, insegnamenti che potete ascoltare, che le azioni che abbiamo compiuto, certi tipi di azioni che abbiamo compiuto, ci porteranno esperienza di sofferenza. Quindi avere un certo pentimento rispetto a questo, no? con la luce, con questa comprensione, avere rimorso di aver compiuto queste azioni, perché ci porteranno sicuramente esperienza di sofferenza nel futuro, è solo una questione di tempo. Quindi quel tipo di attitudine, questo neutralizza l'esperienza simile alla causa, un'esperienza simile alla causa. Okay. Poi abbiamo, dopo aver, quindi, allora, quello che si fa, di solito i praticanti fanno così, no? Alla fine della giornata scannerizzano la loro attitudine del giorno e vedono che questo non è andata bene, che in questa condizione, che in quella situazione hanno fatto questo, che hanno fatto questo, che hanno fatto questo. Quindi normalmente vanno a selezionare queste varie azioni compiute nella giornata. Quindi questo è quello che si chiama il particolare. Poi in generale, perché ci sono quelli che hanno fatto nel passato che non si ricordano, quindi di solito includono la rottura dei voti, dei precetti che hanno presi, ok? Ci sono dei piccoli paragrafi di una decina di linee che includono il tutto, le azioni, quindi le azioni in generale non virtuose che hanno fatto da tempi senza inizio. Okay? Quindi cercano di generare un pentimento per la sofferenza che dovranno sperimentare, ma anche la sofferenza che hanno fatto agli altri. E poi abbiamo il secondo è la determinazione di quindi quello che siamo in grado di abbandonare. Allora viene generata la determinazione di bloccare quel tipo di azione da ora in poi. Okay? Però con certe azioni, dobbiamo essere realisti, non è possibile. Per esempio il parlare a vanvera, molto difficile di bloccare il parlare a vanvera, perché o il criticare, quel tipo di cose, no? Cioè, molto facile per noi. Quindi si cerca di determinarsi per un periodo di tempo, tipo domani per metà giornata, o domani per una giornata, o per una settimana, non fa. E poi piano piano si cerca di espandere il tempo finché siamo in grado di completamente eliminare, di non più compiere quel tipo di azione. Okay? Poi abbiamo, quindi questo neutralizza la tendenza simile alla causa, quindi questa tendenza, okay, di riprodurre. Poi abbiamo la presa di rifugio e la generazione della mente di bodhicitta. Se guardiamo il campo, si parla di campi, sul quale le nostre azioni possono essere fatte. Abbiamo due tipi di campi, abbiamo gli esseri ordinari, okay? Esseri ordinari, e abbiamo invece quelli più particolari, che sono gli esseri realizzati, come i propri maestri, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Quindi, nello stesso modo che quando si impara a camminare, no? quando si cade, si rimette in piedi esattamente sullo stesso suolo dove siamo caduti, allora si riprende rifugio, perché questo diciamo, è il suolo degli esseri particolari, degli esseri speciali, sul quelli con i quali abbiamo avuto relazione scorrette, e si genera la mente di bodhicitta, questa mente di compassione, all'incontro di tutti gli esseri senzienti. Okay? Quindi questo neutralizza l'effetto ambientale. Questo neutralizza l'effetto ambientale. E poi dobbiamo aggiungere l'antidoto vero e proprio. Quindi ci sono delle tecniche particolari per andare a neutralizzare questa volta l'effetto di piena maturazione, che è la capacità di un'azione a proiettare una rinascita particolare sfavorevole. Quindi per questo il migliore è il riflettere, quindi di solito nei test dicono per almeno 10 minuti, 10-15 minuti, per esempio sulla vacuità. Ma questo è molto difficile perché bisogna aver studiato, bisogna capire che cos'è, quindi riflettere sulla mancanza intrinseca, la mancanza vera dei fenomeni, però questo è molto, molto difficile. Altrimenti possiamo anche, ci sono varie pratiche diverse con la recitazione, per esempio, di nomi di Buddha particolare con delle prostrazioni che vengono associati, o la recitazione di mantra con delle visualizzazioni, no? Per esempio, uno molto conosciuto, molto praticato, è il mantra lungo di Vajrasattva, quindi con la visualizzazione del nettare che entra, che purifica completamente il corpo, eccetera, eccetera. Okay? O altrimenti, se non ci sono queste cose, possiamo anche meditare per 15 minuti sulla mente di bodhicitta, sull'amore incommensurabile, sulla compassione. Può essere anche leggere un sutra, per esempio leggere il sutra del cuore piano e riflettere sul suo significato. Può essere qualsiasi azione facciamo in quest'ambito, nell'ambito dei quattro poteri che vengono utilizzati, vengono generati uno dopo l'altro. E in quel modo possiamo piano piano purificare il karma negativo. Allora, l'intensità della purificazione dipende direttamente dalla capacità di meditazione del praticante, okay? Nel senso che possiamo purificare il karma in vari modi. Lo possiamo purificare completamente. Questo non significa che è come se fosse l'azione non l'abbiamo mai compiuta, no. Ma l'azione in sé porta a un'oscurazione. Quello che non sperimentiamo è il risultato di questa azione. Ma un'azione non virtuosa è comunque un'oscurazione che distanza l'ottenimento della realizzazione o delle comprensioni, crea dei veli sulla propria mente e distanza la comprensione profonda, la realizzazione di cose sottili. Quando si studia, si ha difficoltà a comprendere, a trattenere l'insegnamento, a memorizzarlo, tutto questo sono dovute all'oscurazione mentale che abbiamo. Quindi almeno non sperimentiamo l'effetto di sofferenza di questa azione. Questo è quando, nel miglior dei casi, altrimenti possiamo sperimentare, e di solito è quello che capita nell'ambito dei praticanti, invece che il karma matura al momento della morte, per esempio, e ci proietta in un'esperienza di sofferenza per tutta un'altra vita. Allora, in questa vita, il karma matura un'esperienza di difficoltà più o meno maggiore, dipende dall'intensità della cosa. Può essere una malattia, può essere altri ostacoli esterni, ok? Questo fatto in quest'ambito di solito sono benvenuto dai praticanti, quel tipo di cose. Mal di testa, di solito dei mal di testa, quando si fanno delle pratiche di purificazione, allora i mal di testa sorgono. Questi vengono indicati proprio dai maestri, anche nei trattati, come risultati della pratica di purificazione. Di solito quando si fanno dei ritiri di un mese, due mesi, tre mesi, una settimana o un weekend, anche dipende dal tempo che abbiamo, si fanno anche dei sogni, okay? Quindi quando la persona dopo un po' di tempo entra veramente in un processo di purificazione, allora ci sono dei sogni particolari che vengono fatti, come, ma devono essere ripetuti questi sogni, per esempio devono accadere 2-3 volte in una settimana. Okay, per esempio, di bere del liquido bianco, bere del latte, sognare di bere del latte, sognare di mettere dei vestiti puliti, bianchi. Questi sono segni di purificazione. Vedere il sorgere del sole, okay? O salire una montagna, vedere delle cose molto belle, o vedere delle rappresentazioni del Buddha, o vedere, incontrare i propri maestri nei sogni. Okay? Questi sono segni di purificazione che accadono quando una persona si impegna in questi ritiri. Okay? Sì. Cosa molto comune, niente di speciale. Ok. E quindi in quel modo possiamo piano piano depauperare la capacità di sofferenza delle nostre azioni. Quindi questo è qualcosa di molto importante che dovrebbe essere fatto. È qualcosa di molto veloce. Cioè, sono 10 minuti la sera prima di andare a letto, no? Ma si fa sta cosa. Supponiamo che io faccia il cacciatore, sia la tecnica. Devi smettere. No, vabbè, ma supponiamo. Però e vivo, cioè, tutti quelli che mi stanno intorno, in fondo, sono cacciatori. Io non ho nemmeno la consapevolezza che questa può essere un'azione negativa. E questo è il problema. E questo è il problema. Se non vedo le azioni negative. Se non vedi le azioni negative, cosa significa se non vedi? Nel senso, se cioè il mio essere cacciatore è un'azione normale. Sì, sì, ah, lo so. Capito? Quindi io non vedo che questa è un'azione negativa. Ma c'è poco da fare. C'è poco da fare. Cioè, questo vuol dire karma si genera comunque. Ah, certo. Quello sono d'accordo, ma io non ho, cioè, non, i 10 minuti la sera non rientra sul cacciatore. Ah, no. Ah, no. Non ho, certo. Cioè, non ho la consapevolezza. Sì. Quindi io posso non avere la consapevolezza di molte azioni negative che compio durante il giorno perché è normale. Sì, l'ignoranza è la cosa principale della sofferenza. È la cosa principale. L'ignoranza è qualcosa che bisogna eliminare. Dobbiamo eliminare l'ignoranza rispetto al convenzionale e soprattutto anche rispetto all'ultimo, al modo di esistere. L'ignoranza, e questo non cambia niente, al fatto il karma, che uno sia consapevole o non sia consapevole, che un'azione di danno o no, che un'azione che crea sofferenza o no, questo non cambia niente. Il karma viene accumulato. E questo, ecco perché di solito quando, e questo dovrebbe aiutarci anche a generare compassione, no? Se riflettiamo bene a questo, vediamo che gli esseri, no? Gli esseri cercano di ottenere la felicità, no? In vari modi, perché il cacciatore cosa cerca? Lui cerca di essere felice, lui è felice, così va a fare la sua camminata con gli amici nel bosco, bam bam bam, spara di qua, spara di là, però alla fine quello che lui ricerca è avere una giornata piacevole. Il problema è che nell'ignoranza questa persona sta creando le cause della sua sofferenza futura. Quindi guardando le cose in questo modo diventa più facile anche di generare compassione per gli altri, no? Perché tutto quello che facciamo, no, nella nostra vita, ogni cosa che noi, tutte le scelte che facciamo è solo per cercare di essere più felice. Certe cose sono innocenti nel senso che non hanno conseguenze, ma altre hanno conseguenze. Quindi questa è cosa ci possiamo fare, cosa puoi fare? Puoi andare a vedere questa persona e dirgli guarda, però è difficile, c'è poco da fare. Sempre più il fatto di vedere la vita, la comprensione, sì, l'introspezione, certo, no? certo, no, assolutamente. Ecco perché anche quando si parla di meditazione all'inizio, quello che è più importante è la meditazione analitica, dove si ricerca analizzare le cose, comprendere. La concentrazione è qualcosa che viene dopo. Ok, quindi abbiamo visto il primo aspetto generale, che sono 4 caratteristiche generali del karma. Abbiamo visto il primo, il karma è certo. quella certezza del karma rispetto alla natura, no? Il secondo è questo anche tosto, è l'aspetto esponenziale del karma. L'aspetto esponenziale del karma significa che una grande fonte di felicità può sorgere da una piccola azione virtuosa, o una grande fonte di sofferenza può sorgere da una piccola azione non virtuosa, semplicemente perché un'azione, se non incontra un'azione negativa o un'azione virtuosa, no? Se non incontra ostacoli nel caso delle azioni non virtuose e se non viene, per esempio, bloccata dall'utilizzo dei quattro poteri opponenti, il potenziale di questa azione aumenta. Quindi una piccola azione non virtuosa è quasi può col tempo può far sorgere una grande esperienza di sofferenza. Grande esperienza di sofferenza. Quindi questo effetto, questa causalità, questa esperienza, questo aspetto di causalità interno lo vediamo anche nell'esterno, ma l'interno, nel caso del karma, è molto più importante. Per esempio, vediamo che da un piccolo seme ridicolo possiamo avere con tempo un albero enorme. Oggi sono degli alberi enormi, con molte frutte, eccetera, molta frutta, eccetera. Quindi abbiamo anche questa relazione esponenziale rispetto alla causa e l'effetto nella causalità esterna, ok? Ma nel caso della causalità interna è ancora superiore a questo. Quindi, per esempio, un'azione ridicola di aver ucciso, non so, un insetto, una cosa del genere, no? Il giorno dopo ne aveva ucciso 2, dopo 4, 16, 18, cioè 32, cioè la cosa è esponenziale. Quindi pensate a un'azione che è stata compiuta, quindi nell'ambito del buddismo non si tratta, si dice che la continuità mentale non ha inizio. Quindi la persona che viene imputata, etichettata sulla continuità mentale, vi ripeto che la persona non è la mente, è denominata indipendenza della mente, quindi la persona quindi non ha inizio, ok? Quindi pensate alle azioni che sono state compiute non so quanto tempo fa, che non hanno ancora maturato, cioè quando matureranno queste faranno male, ok? Quindi, e questo è valido sia nel positivo che nel negativo, ecco perché anche nella propria pratica, quindi nella propria pratica non dobbiamo sottovalutare le piccole azioni negative, ma non dobbiamo neanche valutare le piccole azioni virtuose, come semplicemente praticare la generosità con gli animali, delle cose così, non sempre hanno delle cose in paragone a altre cose, no? Come quelli che vanno a creare degli ospedali, delle scuole, eccetera, cioè dare del cibo a degli animali, però questa azione di generosità, ok, darà fonte, e questo è certo, no? A grande esperienza di felicità nel futuro. Se non viene, come si dice, distrutta dalla collera, perché la collera distrugge, è come il fuoco, no? Distrugge la capacità di maturazione delle azioni virtuose. Quindi il praticante, al di là di cercare di smettere di compiere azioni non virtuose, al di là di cercare di neutralizzare quelle già compiute, cerca anche di non generare collera, quindi sviluppare pazienza, perché un istante di collera è in grado di bruciare, no? Del karma virtuoso accumulato per molto tempo. Quindi anche lì la distruzione del karma virtuoso dipende dall'intensità della collera, del sopporto della collera, okay? Quindi possiamo distruggere completamente, possiamo distruggere parzialmente, nel senso di invece di sperimentare felicità, una grossa felicità si sperimenta una piccola, o per invece di che questa felicità sia sperimentata per molto tempo, si sperimenta una sensazione piacevole per poco tempo, allora viene posposta. Invece che felicità sia sperimentata nella prossima vita, viene posposta. Quindi bisogna fare attento alla collera. È la cosa peggiore che ci può capitare, perché crea sofferenza nella propria continuità mentale, no? quando la persona genera dell'avversione, perché avversione, collera, odio, la stessa cosa, ma con amplitudine diversa, okay? Subito c'è sofferenza nella continuità mentale. No? Subito, cioè, certe volte neanche, non si può neanche dormire, siamo agitati, neanche un pasto riusciamo a mangiarlo, no? Quindi c'è sofferenza, grande agitazione. Facciamo anche soffrire gli altri, perché di solito vengono fatte delle cose spiacevoli quando la persona è in collera. Poi sì, questo diventa un tratto del nostro carattere, si dice così in italiano, tratto di carattere, ok? Di solito anche gli altri se ne vanno, nel senso che non vogliamo essere intorno alle persone che si mettono in collera, che si arrabbiano per piccole cose, no? Quindi abbiamo anche difficoltà a avere dei amici in questo contesto. E altra cosa, no? Quindi ovviamente le azioni virtuose scarse che possiamo compiere vengono indebolite. Quindi ci rimane solo esperienze di sofferenza alla fine. Quindi è molto importante. I praticanti fanno molto attenta alla rabbia, quindi sviluppano la pazienza. Okay? Quindi la pazienza non è tipo, cioè, non so, il pullman in ritardo, il treno in ritardo, e sono lì bollente all'interno, però non dico niente, non faccio niente. Questo non è la pazienza, questa è l'etica. Questa è l'etica. La pazienza è una mente non disturbata, quindi la mente dimora non disturbata qualsiasi sia la situazione. L'altra cosa, per esempio, c'è una persona che vi dice delle cose brutte, cattive, bollete all'interno, però non rispondete, questa è etica, è buono l'etica, okay? Perché vedrete che le parole che feriscono anche loro hanno un risultato molto particolare e spiacevole. Ma almeno il karma negativo non viene compiuto. Ok, quindi abbiamo questa causalità interna con sì. Spesso viene detto, cioè mi sembra che la variabile tempo sia una cosa importante. Esatto. In questo, cioè fa differenza probabilmente in questo senso se una cosa viene vissuta per un secondo o due settimane. In che contesto? Cioè, fammi un esempio. Anche prima, appunto, io posso rimanere in collera per due settimane, sì. O andare in collera per un secondo. È meglio il secondo. Sicuramente è meglio. In generale, per il tuo stato anche fisico, è meglio, anche perché cioè, trattenere una continuità di collera, cioè... certo, ma anche cioè, tutta la tua attività mentale a quel punto, no? Cioè, anche il karma mentale che stai creando, stai lì concettualizzando in un modo molto negativo, cioè c'è una continuità di risentimento, no? Questo bisogna neutralizzare, vanno bloccate queste cose. Quindi ovviamente bisogna essere anche attenti, no? Perché certe volte sopprimere le cose a un certo punto si può essere anche avere del disturbo, quindi è meglio sicuramente nel caso estremo è meglio scoppiare due secondi che star male e essere così per due settimane, sicuramente, però è meglio non arrivare a quei livelli, quindi quando è qualcosa, cioè, è meglio andare a fare un giro. Quindi dobbiamo solidificare questa certezza, no? Che anche la più sottile virtù o la più sottile non virtù ci segue come l'ombra segue il proprio corpo, no? Di vita in vita. L'ombra, così, no? E producono entrambi rispettivamente sofferenza e felicità. Quindi si dovrebbe cercare di coltivare di fare sforzo nel coltivare anche le minime azioni virtuose, anche le cose che vi sembrano completamente priva di, in francese si dice dérisoire, non so come si dice in italiano, cioè che vi sembra sì priva di importanza, invece si sono virtuose, vanno compiute. Okay? E invece dovrebbe cercare di abbandonare anche le minime, le più sottili non virtù, perché sono fonte di grande sofferenza con il tempo. Quindi quando si parla di maturazione delle azioni, okay, non pensate che quello che fate in questa vita lo sperimentate in questa vita. Okay? Quello che le nostre esperienze di questa vita sono risultati di azioni passate. È possibile sperimentare certe azioni compiute in questa vita stessa. È possibile, ci sono 8 tipi di azioni che possono essere sperimentate in questa vita. Sono azioni fatte con dipendono dalla motivazione della, quindi la motivazione deve essere molto forte, okay? Quindi ho una forte avversione, per esempio, ho un forte altruismo, okay? E dipende anche dell'oggetto verso il quale viene compiuto questa azione, perché ci sono dei supporti che, dovuto al legame o dovuto al beneficio che abbiamo ricevuto da queste persone, allora l'azione è più o meno pesante. Vedremo queste più avanti. Il terzo aspetto generale del karma è che non si sperimenta effetti di azione che non abbiamo compiute. È impossibile. Quindi se non abbiamo accumulato il karma, che è una causa per un'esperienza particolare di felicità, non la potete sperimentare. Se non avete accumulato il karma, che è una causa particolare per una sofferenza specifica, quel tipo di sofferenza non lo potete sperimentare. Impossibile. Come? Quindi siamo sicuri che quando sperimentiamo sofferenza sicuramente è stato fatto. Sì. Sì, sì, sì. Ma sofferenza anche, una sofferenza specifica corrisponde a un'azione specifica. Quindi non solo nel generale, ma nel specifico. Per esempio, la causa della ricchezza è la generosità. Quindi potete cercare di, non so, di andare a giocare al lotto. Avete il lotto in Italia, giusto? Sì, lì. Però se non avete compiuto, non avete accumulato le cause della generosità, è impossibile che la ricchezza matura in questa vita. Così. Se invece abbiamo compiuto azioni tipo il rubare, eccetera, eccetera, allora è chiaro che nelle vite future saremo depauperati di beni materiali e saremo in situazioni precarie. O i nostri possedimenti, il poco che avremo lo dovremo condividere, okay? Quindi ce ne rimane ancora di meno. O le cose ci danno in prestito e non vengono mai restituite. Questo è il risultato dell'azione del rubare. Ma in generale l'effetto principale è che siamo privi di risorse, a più grande o a piccolo livello, dipende dalla forza dell'azione e della maturazione dell'azione stessa. Sì. Il primo è fatto l'esempio dell'uccidere, no? Uh-huh. Cosa può causare nella vita futura. E se invece io vengo ucciso, che cosa, cioè se io durante questa vita io sperimento, cioè altre persone su di me fanno la violenza, io sono l'oggetto dell'uccisione. È maturazione del karma. Ma a quale causa può essere? Ha fatto la stessa cosa. Sì, hai ragione, sì, discorso di più. È esperienza simile alla causa. Hai ragione, scusa. No, niente. Simile alla causa. Quindi sì, c'era uno dei primi insegnamenti che ho sentito, c'era le cose sul karma, e mi ricordo che l'insegnante era un maestro tibetano, è abbastanza ortodosso, quindi ci andava pesante su queste cose, no? E lui diceva, un giorno aveva detto, no, diceva che nel caso di uccidere, no? Dice che non è mai giustificato uccidere, l'unico modo nel quale si potrebbe uccidere e quando, per esempio, sapete che una persona va a uccidere altri, quindi allora potete prendere su di voi il karma di neutralizzare questa persona, no? Prima che lui compie azioni negative per lui e che fa soffrire altri. Poi dite comunque, cioè, che ci sarà un'esperienza di sofferenza deriva di questa azione di uccidere, perché l'azione di uccidere è un'azione non virtuosa per entità, la sua entità è tale. Però la motivazione diminuisce l'effetto di maturazione di questa azione non virtuosa, no? lui diceva, no, che non è, quindi anche per salvare la propria vita, dice, non è giustificato uccidere. Al momento in cui vengo uccisa, però io Come? È finito. Quel karma, è finito. Quindi un karma, una volta che è maturato, quel karma è finito. Sia nell'esperienza di felicità, sia nell'esperienza di sofferenza. Quindi i praticanti, no, dopo che hanno un po' di familiarità con tutte queste nozioni, ogni volta che loro attraversano delle difficoltà, pensano a questo aspetto, no? Pensano che hanno eliminato ostacoli, hanno eliminato karma che potrebbe maturare in vite future, lo utilizzano per riflettere sulla natura dell'esperienza della vita, che nell'entità della sofferenza, per sviluppare eventualmente compassione per gli altri, eccetera, eccetera, queste cose. Tutto, normalmente no, ci sono delle istruzioni dove tutto ciò che viene percepito, tutto ciò che viene sperimentato va utilizzato nella pratica, no? Per far crescere la propria mente, quindi per generare più grande comprensione o per aumentare qualità varie. Tutto può essere utilizzato, dipende come guardiamo le cose. E di solito comunque è sempre, se guardate bene, no? È sempre nelle difficoltà che possiamo crescere, no? Che possiamo progredire. Se tutto è facile, non c'è, se tutto va bene, non c'è neanche sviluppo di qualità, non c'è neanche sviluppo, nel senso non vi conoscete neanche, no? Se non avete mai sperimentato un po' di difficoltà, non conoscete i vostri limiti e non c'è neanche possibilità di sviluppare delle qualità, perché le qualità sono delle cose che vengono sviluppate quando c'è un confronto con una situazione difficile. La pazienza, tutte queste cose, no? Ovviamente questo. Ringraziare il divino ogni volta che ci capita al lato pratico questo. Sessione, ti ringrazio. Cioè, nel buddismo tutte queste cose non sorgono dovuto a un'entità superiore, no? È semplicemente la legge di cause e effetto, no? Le cose maturano, semplicemente è il momento, come quando si mette un seme in terra, no? Dopo un po' di tempo ci sono le cause, le condizioni che fanno maturare, fiorire quella pianta, uscire quella pianta. Anche se non percepiamo il momento nel quale il seme viene piantato, no? E pensiamo che sorge così, ci sono delle cause a farlo uscire. Quindi nel buddismo tutto ciò che accade è dovuto alla mente, è la mente che crea tutto, eh? È la mente che è il motore delle azioni, è la mente che è il motore delle varie attitudini, è la mente che crea tutte queste situazioni di sofferenza, felicità, è anche la mente che crea questo ambiente. Mi scusi se occorre un'attenzione continua su se stessi per accorgersi molte volte di sbagliare, perché tu anche con la miglior buona volontà hai sbagliato, perciò commetti qualcosa involontariamente e questo naturalmente porta poi l'effetto, magari se volevi dire era ottima, però la persona a cui ti sei rivolto non l'ha recepita nel modo giusto e la sua reazione è. Esatto, quindi allora nel karma ciò che è principale è la motivazione. Se uno ha la motivazione di aiutare o di far del bene o di essere altruista, eccetera, comunque sia una motivazione positiva, virtuosa, questo determina questo determina il risultato. Okay? Il fatto Però se che, si sbaglia il involontariamente. fatto che si sbaglia, il fatto che viene percepito male, eccetera, eccetera, questo è un'altra storia. Il karma che viene compiuto attualmente, se per esempio tu hai il desiderio di praticare la generosità e fare la generosità con qualcuno e questa persona invece se la prende per orgoglio, cioè questo non diminuisce in nessun modo l'azione compiuta. Insomma, perché ciò che è principale è l'intenzione, cioè l'intenzione, cioè tutto dipende, cioè la mente è primordiale. E comunque ciò che dicevi è giusto, nel senso che In tibetano, quando si traduce la parola buddista o praticante del buddismo, è l'essere che si è girato verso l'interno, no? Che guarda l'interno. Esatto. Perché adesso noi guardiamo molto all'esterno e questo ci impedisce quindi di sviluppare una certa consapevolezza sulle proprie attitudini, le proprie dinamiche. E in essenza la pratica del Dharma è cambiare la mente. Quindi cambiare la mente significa che dobbiamo riconoscere, prima dobbiamo avere un minimo di conoscenza in termini di ciò che va adottato, coltivato, messo in pratica, e ciò che deve essere eliminato in termini di attitudine, eccetera. Quindi sì, la mente è sempre rivolta all'esterno, è impossibile che ci sia, che una pratica spirituale possa nascere. Quindi è molto importante diventare piano piano consapevole della propria dinamica, dei propri giochi, della propria mente, perché in quel modo sappiamo riconoscere mente di attaccamento, mente di avversione, mente di orgoglio. Tutte queste menti devono essere riconosciute, dobbiamo riconoscere, studiare le loro entità, essere in grado di riconoscere. E quando si manifestano, dobbiamo essere in grado di utilizzare gli antidoti per opponersi a queste attitudini. Quindi diciamo queste, piano piano vedremo insieme tutte queste cose. Queste appartengono più all'essere di scopo intermedio. Quindi sono insegnamenti per la persona che ricerca la pacificazione completa della mente. Quindi adesso torniamo al karma. Quindi tenete che ciò che è più importante è la motivazione. Se la cosa viene percepita male, questo non è il vostro problema. Cioè non è il vostro problema in termini, cioè non toglie niente alla vostra azione. E la quarta caratteristica è che un'azione, una volta che è stata compiuta, non viene, questo l'abbiamo già introdotto, non si perde, col tempo semplicemente non è che fuoriesce dell'esistenza dovuta al tempo. Quindi tutte le azioni virtuose e non virtuose che abbiamo compiuto da tempo senza inizio, se non incontrano i fattori opponenti, come nel caso del virtuoso la collera e nel caso del non virtuoso i quattro poteri opponenti, questi matureranno. È solo una questione di tempo. Vai. A proposito del fatto che si matura, che si cresce nella difficoltà, diciamo, no? Non c'è quindi differenza fra delle difficoltà appunto nella nostra cultura arrivate così dal nulla e difficoltà invece che tra virgolette ci cerchiamo? Ok, allora sì, all'inizio non vi consiglio di ricercare le difficoltà, no? Perché anche quando le cose vanno più o meno bene, o diciamo che abbiamo anche delle piccole difficoltà, perché comunque questa forma di esistenza è pervasa di problemi, difficoltà varie. Cioè il momento nel quale non sperimenti più difficoltà e problemi, non sei più nel samsara, non sei più nell'esistenza ciclica, sei uscito. Quindi questa forma di esistenza è pervasa di difficoltà e problemi, quindi ci arrivano, e soprattutto ci arrivano dal momento che è incominciata a volere camminare nuotare a controcorrente. Vedrete le difficoltà che incominciate a incontrare quando incominciate a voler fare delle cose virtuose, no? Avere dei progetti virtuosi o a eliminare certe attitudini, a praticare certe cose. Vedrete le difficoltà vi cadano sopra come la pioggia. Pioggia. Quindi arrivano, naturalmente arrivano. Poi ci sono anche un altro livello di praticanti che volontariamente vanno alla ricerca delle difficoltà, okay? Però queste sono più avanzate, sì, ci sono livelli molto alti, e sono quelli che vanno alla ricerca di difficoltà. Volontariamente, si mettono volontariamente in situazione molto difficile. Perché? Perché hanno le capacità. È una forma di prevenzione. Non è per loro, non è una forma di prevenzione, è più il desiderio di respingere i propri limiti sempre di più. quindi la capacità di incrementare la capacità di pratica. Ok, io mi fermerei qui stasera, se avete un paio di domande le prendo eventualmente, altrimenti io... Buonanotte, andiamo. Ok, quindi come di solito, alla fine abbiamo generato la motivazione giusta all'inizio dell'insegnamento, alla fine dell'insegnamento dobbiamo avere la dedica, okay? Queste sono cose, due cose importanti all'inizio di qualsiasi azione che fate, no? Azione virtuosa che fate, all'inizio è la motivazione. Non avere sempre la motivazione per ottenere lo stato di Buddha solo quando venite qui, ma anche nella vita di tutti i giorni. Tutto quello che fate quando vi prendete cura della vostra famiglia, quando fate il pranzo per i vostri figli, quando andate a lavorare la mattina, generate questa motivazione, no? Che generate questa motivazione. E poi alla fine di un'azione, per fare in modo che questa energia virtuosa, no, che abbiamo accumulata, non viene distrutta dalla collera o non matura come una mera esperienza breve di contentezza all'interno dell'istanza ciclica, ma che invece continua a dare dei risultati fino all'ottenimento dello stato di Buddha, allora andiamo a dedicare queste virtù per l'illuminazione di tutti gli esseri senzienti, no? Per fare in modo che queste virtù andiamo a metterle nell'oceano delle dediche di tutti i Buddha e i Bodhisattva. In quel modo dimorano finché e danno risultati finché questo risultato, questa situazione non sorge. Altra dedica che di solito facciamo è quindi per fare in modo sì che noi e tutti gli esseri otteniamo lo stato di Buddha, per fare in modo che molto velocemente saremo in grado di generare la mente di Bodhicitta, anche questa mente che ci porta velocemente allo stato di Buddha, alla lunga vita dei maestri che insegnano i veri sentieri verso la cessazione della sofferenza, okay? E finché l'insegnamento, che fonte di felicità, dimora per molto tempo. Quindi io le faccio in tibetano perché ho questa abitudine. Voi non so se avete i libretti, saranno scritti anche in italiano, altrimenti semplicemente pensate a queste cose, no? Grazie. Gawa de nyodo da lama sangye drungyo ne andrawa jinja maloba deye salangoma janjo zemjo rinpoche pakya banam kengyo je nyama nyamba nyamba yon gonde gondo balwa jo gare rawe korwe chinkamde Dam dam dewa malu juwe ne chenre ziwa tenzin gyatsoi Sita pandu denju ji andaso jinye zambe gyawa di Dam dam drawa kuna gambe dan jamba jetsu lo zandra bai Tembe nyambo rindu selche jom Grazie. E ci vediamo domenica prossima.